L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Un saluto da Deborah Rosciani. Siamo giunti alla settima puntata del nostro Alfabeto del Risparmio, il podcast originale di Radio 24 dedicato all'educazione finanziaria e realizzato in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria in Italia. Abbiamo ormai superato il giro di boa di questo mese di ottobre 2020, mese dell'educazione finanziaria. Ricordiamo che il portale, quello che conta.gov.it, raccoglie tutte le iniziative promosse nell'ambito del mese su tutto il territorio nazionale. Progetti che puntano ad accrescere le conoscenze di base sulla gestione e sulla programmazione delle risorse finanziarie, personali e familiari. In questo portale trovate poi anche tantissimo materiale utile ad approfondire i temi del risparmio personale e dell'educazione finanziaria. Come sempre, in questa puntata partiamo con una lettera dell'alfabeto ed è una lettera che ritorna nel giro di due settimane portandoci ad approfondire però diversi argomenti. Torniamo a scegliere infatti la C. Siamo partiti con la C di Comitato, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, insieme al quale realizziamo questo progetto. C'è stata poi la C come Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Questa volta è C come carte di pagamento. C come carte di pagamento. Vengono citate sempre più spesso tra i principali strumenti per la cosiddetta lotta al contante, finalizzata a contrastare l'economia sommersa, ma anche, in questo periodo d'emergenza, a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. La medesima forma di tessera magnetica può ospitare però formule di pagamento molto diverse tra loro. La carta di debito permette di effettuare acquisti presso esercizi commerciali, prelievi o ricariche presso gli sportelli ATM aderenti a un circuito. Il più noto è il Bancomat, da cui deriva il nome con cui tradizionalmente la identifichiamo. È collegata a un conto corrente, gli importi vengono immediatamente addebitati e se non ci sono fondi sufficienti sul conto, la transazione non può essere autorizzata. Con una carta di credito, invece, le somme spese o prelevate vengono anticipate dall'ente emittente per poi essere addebitate, in genere con cadenza mensile o più ampia, in un secondo momento. Se la carta di credito è revolving, la restituzione delle somme avviene in maniera rateale e posticipata, secondo un piano definito al momento della stipula del contratto e che può comportare il pagamento di interessi in misura sensibile. Un altro tipo è la carta prepagata, che consente di fare acquisti, prelievi e altre operazioni presso gli sportelli ATM. In questo caso, però, non è necessario essere appoggiati a un conto corrente. Come per un salvadanaio, la carta si attiva con il versamento anticipato di una somma, che si riduce di volta in volta fino a esaurimento. Se la carta è ricaricabile, la somma disponibile può essere ricostituita. Quando scegliamo di pagare con la carta, quindi, è bene non fare confusione e conoscere bene lo strumento che si ha in mano, usarlo correttamente ed evitare brutte sorprese. Ulteriori indicazioni sui sistemi di pagamento sono a disposizione sul sito quellochecontagov.it. C come carte di pagamento. In questo appuntamento del nostro alfabeto del risparmio facciamo il punto sulle differenze fra i diversi strumenti che saranno al centro, tra le altre cose, del piano cashback del governo in partenza nei prossimi mesi. Si parla quindi di carte, ma anche di app, di applicazioni che consentono i pagamenti digitali. Un'attenzione particolare la rivolgiamo in questa puntata alla platea giovanile. È sentire comune che i giovani non abbiano come esigenza principale quella di saper gestire il denaro, perché purtroppo non ne hanno molto da parte e raggiungono con molta difficoltà l'indipendenza economica. È vero che ci sono delle difficoltà e delle frustrazioni, in particolare in momenti di crisi come questo, ma è anche vero che pur non avendo in molti casi grandi capacità di spesa, i giovani restano comunque dei consumatori. Insomma, che si guadagni poco o tanto è di quel poco che ci si deve prendere cura e per questo serve consapevolezza. Ne abbiamo parlato con un'esperta che fa parte del Comitato per l'Educazione Finanziaria e che ha un'esperienza in prima linea con i giovani. È Giovanna Boggio Robutti, direttore generale della FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Sentiamo. C'è da dire che i giovani, anche se non hanno un lavoro, qualche soldo da spendere ce l'hanno sempre. Meglio che li spendano in maniera consapevole e responsabile. Molto spesso i ragazzi, noi ne incontriamo migliaia ogni anno nelle scuole e parliamo con loro di questo, quindi vi do proprio un'esperienza di prima mano. Ci dicono che loro possiedono strumenti di pagamento elettronici, voi avete parlato di carte, ma loro ormai sono nel mondo delle app, li possiedono perché sono tecnologici, ma poi alla fine non si fidano a usarli e quindi usano ancora tanto i soldi in contante, sicuri che questo sia un sistema più sicuro e più efficace per gestirli bene, quando per noi invece i pagamenti elettronici, che sono tutti tracciati, sono una palestra di educazione finanziaria fondamentale. Quindi li usano come i soldi, non sempre conoscendo così bene gli strumenti più adatti per gestirli efficacemente. Quando si parla di educazione dei giovani, pensiamo alla scuola, ma anche e soprattutto alla famiglia. Forse è proprio in famiglia che non vengono trasferite le informazioni corrette, anche in termini di sistemi di pagamento. Forse non se ne parla abbastanza. Abbiamo parlato anche di questo con Giovanna Boggio Robutti. Questo purtroppo ce lo dicono tante ricerche, ahimè gli adulti non sono molto più acculturati su questi temi, quindi molto spesso le scelte sono fatte in maniera magari abitudinaria, non sempre razionali, non sempre così informati. Quindi l'ausilio della scuola è importantissimo, perché a scuola in qualche modo si riesce anche a introdurre questi argomenti. Parliamo oggi di pagamento, ma siamo sempre nell'ambito di quella che noi chiamiamo cittadinanza economica, quindi trasmettere ai ragazzi quelle indicazioni e competenze fondamentali per gestire i soldi, che sono uno strumento di benessere indispensabile nella loro vita. La relazione dei giovani con i contanti ci racconta anche quella che è la loro percezione del valore del denaro. Tutto lo stravolgimento che la pandemia di Covid-19 ha portato nelle nostre abitudini può giocare un ruolo in questa dinamica? Negli ultimi mesi tutti ci siamo abituati a pagare sempre più spesso con gli strumenti digitali, un po' per evitare il contatto, un po' perché abbiamo privilegiato i pagamenti online. Sentiamo su questi aspetti sempre Giovanna Boggio Robutti. Da un lato loro hanno questo mito del contante come una modalità più controllabile, più sicura per gestire soldi, e non è così, noi lo sappiamo. Tra l'altro appunto la pandemia ha fatto succedere un mare di cose, quindi oggi si usa meno volentieri il contante, però ricordate che delle ultime ricerche che ho trovato in rete sembra che ancora ci sia l'attitudine a usare i contanti per le piccole spese, quindi se è molto aumentato l'uso degli strumenti di pagamento elettronici con il Covid, purtroppo è rilevato che sulle piccole spese ancora i contanti noi li abbiamo in tasca. Invece le carte si possono usare anche per le piccole spese, credo che questo sarà un altro salto epocale. E torniamo al nostro mese di ottobre 2020, mese dell'educazione finanziaria. Abbiamo chiesto a Giovanna Boggio Robutti su quali fronti si sta particolarmente impegnando FEDUF, che è storicamente parte del comitato. Sicuramente c'è un grandissimo impegno nel mondo della scuola e il focus è proprio sull'argomento di cui abbiamo parlato fino ad ora. Sicuramente il focus è proprio sui pagamenti digitali, abbiamo rifatto completamente il nostro programma per le scuole superiori, lo porteremo in tantissime scuole attraverso naturalmente le piattaforme digitali, ma le lezioni vengono benissimo anche così, quindi un nuovo progetto, programma che si chiama Pay Like a Ninja, in cui l'orizzonte appunto esce da quello delle carte di cui abbiamo parlato, entra in tutto il mondo nuovo, comprendendo anche le criptovalute e infine anche un piccolo passaggio sul gioco d'azzardo, che ahimè purtroppo è molto presente nei telefonini dei ragazzi ed è purtroppo collegato col denaro. Ci saranno incontri per le scuole, si trovano tutti nel calendario del mese Dufin, quindi sul sito quello che conta, .gov.it, e poi lo annuncio in anteprima, faremo un bellissimo digital live talk, naturalmente digitale, dedicato al mondo dei pagamenti, che si chiamerà Posso pagare con carta? Quindi questo sarà un momento molto divertente, sempre rivolto alle scuole. Quando si parla di pagamenti digitali, la prima critica, ne riceviamo molte anche noi dai nostri ascoltatori, è quella sul ruolo delle banche. Per molti la promozione degli strumenti digitali non è riconducibile ad un atteggiamento più consapevole e corretto in materia di gestione di finanza personale, ma è un modo indiretto di favorire gli interessi di questo settore. Come risponde FEDUF a questo tipo di pregiudizio? Tutte le persone che ci dicono questa cosa, per fortuna ormai non l'ho proprio praticamente mai più sentita, una volta la sentivo di più, noi gli diciamo semplicemente venite a vedere una delle nostre lezioni. Sono aperte a tutti e l'ultima cosa di cui si fa promozione sono proprio le banche. Peraltro noi siamo una fondazione che è stata costituita dall'ABI, ma non siamo una banca. E il nostro statuto dice che noi dobbiamo fare divulgazione e educazione finanziaria. Quindi noi non vendiamo nulla, noi vogliamo rendere più formati cittadini italiani proprio perché dialoghino meglio con le banche, che è un vantaggio per tutti, per i cittadini e per le banche. Abbiamo citato in apertura il piano cashback del governo. Ricordiamo che si tratta di procedure semplici e i più capillari possibili per modificare i comportamenti dei cittadini e ridurre progressivamente l'uso del contante attraverso vari sistemi di premialità. La sperimentazione inizierà da dicembre. Il principio è quello di ottenere la restituzione del 10% di quanto speso con moneta elettronica, in presenza di alcune quote minime di spesa e di numero di transizioni. Abbiamo chiesto a Giovanna Boggio Robutti se anche iniziative di questo tipo possono rappresentare uno stimolo per convertire gli irriducibili del contante verso la moneta elettronica. Si tratta secondo me di favorire un cambiamento che ha senso per tutti, tra parentesi anche un senso di sostenibilità, quindi direi che tanti governi, tra cui il nostro, appoggiano questo, ma ha un senso anche appunto nella comodità, nella sicurezza, nell'economia di scala, ma anche nell'allenamento, lo dicevo all'inizio, su una gestione molto più attenta dei nostri soldi, perché usando appunto pagamenti digitali sono tutti tracciati, le nostre entrate e le nostre uscite, che significa sapere come spendiamo i soldi, quanti ne abbiamo ancora e via. Serve un cambio di mentalità, quindi benvengano tutti gli sforzi di tutti, anche del governo, perché questo aiuterà. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con l'alfabeto del risparmio. Ringraziamo Giovanna Boggio Robutti, direttore generale della FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Anche in chiusura l'invito è quello di collegarsi con il sito quellochecontagov.it, il portale del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria, per continuare ad arricchire le vostre conoscenze e il vostro alfabeto del risparmio. Noi intanto vi diamo un appuntamento alla prossima puntata, l'ultima di questo ciclo. Un saluto a tutti da Deborah Rosciani. In collaborazione con il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria.